Gianni, Gianni Capirue, ci sei? Gianni, ci sei? Gianni Capirue di Muroso. Gianni Capirue, ci sei? Attenzione sul canale 5. Attenzione sul canale 5, Brecco. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ciao già, buonasera, così dormi di più. Ah, vabbè, tranquillo già, stai uscendo benissimo, veramente, ma veramente bene. Bene, bene, molto bene. Poi quel discorso che mi stai facendo, va bene, ne parliamo un altro momento, vai, che non fai in radio. Niente, sta uscendo bene già, non ti preoccupare, sono te l'avrei detto subito. Già carica batteria hai fatto. Qualcosa di interessante, se non vuoi farti condizionare dal telegiornale, c'è Di Max che c'è qualcosa di carino, vai, è abbastanza giovanile, impari anche delle cose abbastanza interessanti, canale 52, Di Max, non so se lo guardi, infatti anche io la televisione, già lì non me ne frega più niente, preferisco più farmi una chiacchierata all'apparato alla fine, dai, che sai che è una cosa un pochettino più salutare. Toccando dei discorsi diversi giustamente ogni giorno per passare le ore, però preferisco più l'apparato del televisore. Thank you. settimana, quando c'hai 10 minuti, un quarto d'ora di tempo libero, anche che non sai passare come passare il tempo, mi chiami volentieri, scendo, già siamo abbastanza vicini, e perché non mi devo vedere con me, ce lo possiamo anche autocostruire, perché no? C'è anche bello imparare, questo non l'ho mai fatto, la verità. Quello che ho io. Ma perfettamente, se ti dai utile, perché no? Si impara anche questo. Quando vuoi già, che c'è il tempo libero, anch'io giustamente, possibilmente fine settimana, perché no, un'oretta si può passare, me lo fai vedere direttamente, così posso andare anch'io, quando mi capita la fusale, prendo diciamo, i componenti che coprono due spicci, se sono poche resistenze costeranno un minimo 20 centesimi l'una, a voi forse anche di meno, non è così dispendiosa, diciamo, la spesa. Se non sbaglio, due femmine PM per l'attacco del baracchino ce lo dovrei avere a casa, dopo guardo, dovrei averne due. Thank you. Maria, buonasera compo. Buone avanti. Io, no, aspetta un attimino che mi sto. Ecco che. No, non mi trovo. No, sono alerta, aspetta un attimino. Allora, così il compressore a manetta e così il compressore basso, cosa cambia? Ma sinceramente da parte mia niente, sei limpidissima la modulazione, chiara. Però nessun miglioramento, perfetto. Ok, l'amplificazione c'è comunque, sì. Ora, così compressa, ora, così. C'è adesso la variazione, sto provando un microfono salerno. Aspetta, guarda un po'. Capito, ma se già mi stai ascoltando, sta, no? Non ci sei compressore qua, di modulazione, c'è lo slider, così dentro un tubo, vabbè. Infatti è forse il microfono, poi è il compressore. Aspetta. Ora. L'applicazione già è buona. Sembra i picchi già sono abbastanza alti. Penso che il modulatore è brutto che c'ho. Fine. Vai un telefono, vai su Salerno. Cic. Ora. Cic. Ah, se riesco a pensare di cosa giusto, aspetta. Quell'effetto di basso che leggermente ci vuole, è limpidissima, è abbastanza acuta, molto fine con la modulazione, tutto lì, e brutta non lo è, attenzione, abbastanza chiara, c'è questa piccola differenza, tutto lì. Ehi, ha registrato Gianni, lo sai perché c'è la modulazione così alta, ma me ne sono ricordato visto la capsula, cioè la capsula che avevo modificato io del portatile, quella vetinata, ecco perché, capito? Ah, ok, vabbè, sono comunque ecco il CM40 special della Salerno, attaccato al 2009, se lo vediamo di bene. Avanti Gianni. Ciao, buonasera a tutti. Doppio rumba per la parte. Beh Gianni, buonasera, ben sentito. Ogni tanto. Aspetta. Eccoci qua. Buonasera, ben sentito già, sei compagnia mia di Pomponius, anzi di Ciucucciù Pomponio e di Gianni Capridue. Stavo facendo un po' di ascolto, dico la verità. Quando te ne sono nel discorso non ho voluto interrompere. Comunque ciao a tutti distintamente. Avanti Gianni. Thank you. i tipici big group che si aprono negli anni 30, quando cantavano, una cosa del genere. Sono abituato a sentirmi la voce grossa col tempo, quindi va bene, va bene. Adesso cioè, salta per un barattino, salta per l'altro da tavola. Capito, ma tu quali stavi dicendo? Salta per un punto. Come sempre va bene per il Midland, il 68, il 44, lo Zodiac, che è il Galaxy. Però che bene o male si avviene a tutti. Io mi porto a questo, a voglia, come questo in questo momento lo sto usando. Però che bene o male tutti hanno fatto, diciamo, complimenti. Va bene come un'azione, giustamente anche lui fa la sua parte. A me va bene questo qua, sono più che contento. Semplice e funzionale. Ma l'hai modificato un po'? Va bene, va bene, quindi è molto meglio questa qui la modulazione. E amplifica abbastanza, è una bella amplificazione. Mi è venuto in mente di guardare sotto la verità, perché ho detto, eppure nel saletto ci dovrebbe essere un buco. E così c'è infatti il compressore là sotto, non sopra. Un fornellino c'era con un trimmer. Non è anche un buco, no, l'altro buco è di stare ancora aspettando. Si pornografici stanno facendo, si pornografici stanno facendo. Bobo, mi volete scandalizzare stasera. No, io lo sento bene, era abbastanza grossolana come modulazione, però se ha la possibilità Gianni di regolare senza storpiarla non c'è nessun problema. Quindi diciamo, io ho dato il mio giudizio, ecco. Prova così, Gianni capito, non mi ascolti. 1, 2, 3, prova. Cosa è meglio fare? negativo, non sono andato a vedere la partita, non sono andato a votare, quindi mi aggiungo a voi, capito? Ho dedicato, diciamo, il mio tempo a alcune cose, diciamo, non dico più preziose, non dico più necessarie, ma insomma ho dedicato ben altro tempo. Tutto lì. In questo luogo, dunque, per far andare lì io a votare preferisco fare con la mia famiglia, che è la cosa più preziosa, poi per il resto chi si arrangia, tanto è l'ora di votare, siamo sempre nella cacca, sin al collo, dunque alla fine va tutte queste promesse prese in giro, perché alla fine poi anche la persona più ignorante ci arriva, no, alla fine qui non risolvono niente, dunque prendiamo a perdere tempo, se la prendono in quel paese. Niente, mi stavo dicendo Pomponio che durante il viaggio in pullman hai anche delle belle dormire, così è. Condizionatore esagerato. sbagliato, figurati. E poi è stata giusta, se io dovessi sollevare, vedi, guarda. Allora senti, se sono abituato a dare le cuffiette, le stavo nel modo giusto, non ci ho vinto la frequenza. Ecco perché. Quindi sarebbe andato bene. Secondo me Antonio è abbastanza troppo accentuata e dovresti abbassare, e poi di sottofondo adesso c'hai un leggero disturbo, non so se è un po' di alternata, mi dà questa impressione, può che sia qualche altra cosa. Comunque saluto Gente Pirum, buon proseguimento di serata e fatti sentire più spesso. È un po' un disturbo di sottofondo c'hai Antonio. Ecco. Tanti, buonasera. Gaffa, buonasera, Massimiliano Bulldozer da questa. Salutone a tutti. Ah, Massimiliano, ben sentito. Da Antonello Barracuda, buonasera. Gianni Capri 2, Pomponio e Sandro Tire. Avanti, Sandro. Mamma mia, che sciocca, non ti riconosco, cosa stai facendo? Cosa sto facendo? No, no, no, con questa radio così. Cioè, è totalmente diverso. E vabbè, in attesa che arrivi di nuovo quello là, capito? In attesa di nuovo di quello. Beh, ok, dai. Va bene, va bene, va bene. Volevo chiedere lì a Ossilandia, Antonello. Ossilandia, ma stai usando sempre quel famoso mostriciattolo? Sì, sì, confermo. Ci sono problemi? No, no, assolutamente. Assolutamente, sto notando che è sempre un mitico, diciamo, che stanno bene, dai. E come dicevo, mitico, no, no, funziona egregiamente la verità. Aspetta un attimo. È sempre lindo e perfetto, senza nessun problema. Scalda per 10 minuti e poi gli dai l'input e lui viaggia con una meraviglia. Eia, va bene, dai. L'importante è che viaggia sempre meglio. Va bene, dai, signori, io ne approfitto. Vi saluto, che devo portare il signorino a passeggio. Dai, buon proseguo di serata, buon buonasera a tutti. Ce la risentiamo nel prossimo. Ben bene, ci vediamo. Positivo, ciao Sandro, buona serata, buona continuazione alle prossime, dai. Domani mi spediscono quei finali là. Ok, ciao di nuovo, buonasera e buon continuo. Avanti, Pomponio. Come sempre, Pomponio, assente. E riprendi tu, dai, per i saluti. Via, ciao Sandro. Sentiamo le prossime, fatti sentire anche tu. Le porte sono sempre aperte. Avanti, Capri 2, per i saluti. Thank you. ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. E basta, i 4 watt dell'apparecchio sono, cosa vuoi fare? Quindi usiamo questi per fare queste cose a Vattaro. No, non bisogna sprecare corrente quando non ce n'è bisogno. Aspetta, che c'è mia figlia, vi vuole salutare, di ciao. Ciao, ciao. Gianni Capitolo. Ciao, Capitolo. Thank you. che è partito. Ho visto. Thank you. servire anche un indomani, perché no? Comunque, se vuoi farti una scappata che non ti viene bene, sempre sperando che ci sia, guarda, se tu sai benissimo dove è quel mercato delle pulci, di quelle napoletane, non so se ci sei mai andato, tu come entri, giri sulla destra, arrivi diciamo a questo piccolo corridoio, di fronte trovi un mobile con tanti ripiani, ed è lì di fronte lo trovi, in mezzo a un po' di alta cianfrusaglia, con un grandissimo indicatore, che se non sbaglio c'erano gli attacchi per le valvole, e veniva, se non ricordo mai, sugli 20-40 euro, non di più, però se vuoi puoi anche cercare di abbassare il prezzo, sempre sperando che ci sia, giustamente anche funzionante. Vedi un po' se ti interessa, l'avevo visto lì. Ogni tanto, così anche per prova, per sperimentare, potrebbero anche là farsi anche loro tutti e due una chiacchierata insieme a noi. Cosa che poi se non provano non riescono a capirlo. Diciamo, le porte sono aperte, dunque mi farebbe anche piacere che iniziassero anche loro a modulare. Sicuramente non si parlerà di radio, perché sono le prime armi, si parlerà della vita quotidiana, perché no? È sempre un inizio. Tocca a te, diciamo, assillarli un po' per dare l'input e poi partire. Passati, ma almeno una ventina di persone in più non farebbe male. diventerà tornato un casino, diventerà si azzuffano per avere che fare tu mai stessi quando la sistemati il microfono. Thank you. sono già le 11 domani, fortunatamente mi è uscito una giornata lavorativa, dunque mi devo alzare presto. Mi ha fatto piacere parlare con voi, ci riattacchiamo domani se ne avete voglia, sempre su questo canale, e niente, buonanotte e a domani se ci siete. Questo canale va a parla pesante, mannaggia la Madonna. Se risolvo, non so se sto a cavaggiare anche di giornata. Aspettate, ora invece sto per lavorare. A questo ora di solito lavoro tutti. Tutti al contrario. Meglio così. Nella pagnotta. Questo è altro. Insomma, sono sceso di botte, sono sceso da zero. Aspetta. Ho messo in incendio tutto qua. Sentito. Ma veramente anche io ho sentito a pochetto, sentito un paio di minuti, poi non ho più sentito. Non so poi che l'abbia fatto, se sta lavorando, se deve, Ma lui lo sentì bene intorno alle 4 al mattino, a Falco. Falco lo trovi alle 4, non lo dà alle 4, alle 5 e mezzo lo trovi. Alle 4 alle 5 e mezzo, ricatta, aveva dei cucchi, no? Di solito uno dovrebbe entra di sera anche, di giorno, alle 4 del mattino, vabbè, tu parli di un po' di tempo fa, parli di 3-4 mesi fa. Io sono prigionale e non lo sento perché prima facevamo una linea che si partiva intorno alle 3 di notte, 3 e mezzo, 4 da Porto Torres. E noi facevamo il passaggio verso le 4 e mezzo su Sassari e facevi chiamate e lui era sempre sul sito. Poi ci accompagnava addirittura sino a Bonorga, la saletta di Bonorga, per dirti, cioè, non è che l'ho sentito una notte, l'ho sentito più di una notte per mesi e per anni di fila. Adesso, se si è ritirato non te lo so dire, però solitamente lui era alle 4 e mezzo, lo trovava già a cena. Ah, cazzo, allora poi prima di cambiare casa, sono cambiato casa e quindi non ho... lì non ci arrivava nemmeno lì a te. Ho sentito la macchina io un po' di tempo fa, modulando, di notte. Poi non lo so dove abita adesso, la verità. Beh, lui ha conservato la prefettura di Bologna, è un punto buono quello dove ci ha portato lui di vicino, e ho accompagnato parecchia gente di a Cosa Marcovere, a Dona di Nuoro, passo di cose buone, figurati che io con Antonio lì, ti ha dato il rizzetto, quindi proprio siamo a 500 metri di linea d'aria, la casa sua, dove abitava prima. Arrivavo a dirci di accorpare di quelli due a Nuoro e poi parlavo tranquillamente con un Giampaolo di Lacido e arrivava qua a Santiago 5 a me, io arrivavo a Santiago 5 a lui. È un punto molto molto aperto perché c'è un vallone, c'è un'apertura proprio, capito? E quindi più pian piano dicendo Sardegna. Però lui abitava, senz'altro abitava l'uscita lì di Viale Italia su in alto, perché quando passavamo le gallerie si apriva completamente, capito? Quindi poi comunque ci portava sino a Campena a seconda della giornata, a seconda del tempo, del casino che c'era frequente. Però sembra un po' di piantino quel falchetto lì. Guarda che a quel punto dove abitava lui parlavi tranquillamente anche in due gallerie sino a lui. Io ci parlavo spesso con i camionisti tanto tempo fa, ti parlo nel 2000, nel 90, io proprio di fronte, in pratica abbiamo iniziato di risulta proprio di fronte alle gallerie, parlavo tranquillo, facciamo tutti e due le gallerie, non una sola, tutti e due. Lui parlava da dentro, la gente io l'ascoltavo tranquillo, Santiago 7-8, tutto quello usciva fuori, che era proprio all'uscita della seconda galleria di Via d'Italia, arrivavo fin qua a fondo scala. Ed è un punto buono, molto molto buono, quello dove abita lui, ecco perché aveva la possibilità di arrivare via a Centro Sardegna, è molto molto attento, anche per la zona di Bosa. L'unico problema era la gallura, più l'attento ci arriva, dopodiché il punto che c'ha è non ce la fa, capito? Per fare un valore che vai proprio nel punto dove in via dei domini come lo via di punte che c'è un'apertura e affacci tutta la gallura dal camion.